si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno dal Festival dell'Economia di Trento in diretta da Piazzetta Pasi, qua da Trento, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si Può Fare, staremo insieme sino alle 10, vi ricordo i nostri contatti per interagire in tempo reale con noi, Si Può Fare, @radio24, la mail @sipofare24, il nostro account Twitter, siamo anche su Facebook, questa settimana non c'è parola chiave per il nostro gioco Inviati Cercasi perché siamo giunti all'ultima puntata, sentiremo, raccoglieremo oggi il racconto per quanto riguarda le buone notizie in tema di vacanze, non poteva che essere così visto che ormai insomma ci siamo quasi e soprattutto all'ultima puntata volevamo salutarci proprio con buone notizie per quanto riguarda le vacanze. La settimana prossima, lo dico a tutti quelli che hanno partecipato sin qua, premieremo, diremo qual è l'inviato che abbiamo scelto, l'inviato che vincerà anche un soggiorno responsabile offerto dagli amici di EcoTube. Andate sul sito di EcoTube e scoprite così tutte le loro magnifiche offerte. Andiamo adesso però ad iniziare. And now the good news. Iniziamo come sempre a caccia di buone notizie per iniziare insomma positivamente anche questo sabato mattina. C'è stato lo sciopero dei mezzi pubblici in questi giorni e come sempre insomma non fa piacere. Ecco, due buone notizie le abbiamo trovate. Prima di tutto c'è un possibile accordo per salvare la produzione di autobus in Italia, la Irisbus, un accordo tra Finmeccanica e i cinesi di King Long Italia, ebbene sì, ci salveranno i cinesi per la produzione di autobus negli stabilimenti di Bologna e Avellino. Dovrebbero essere salvi circa 500 posti di lavoro. La Fiat si sfila dalla produzione in Italia di autobus, però insomma i posti di lavoro dovrebbero essere salvi. L'altra buona notizia viene dall'Emilia Romagna, dove la locale azienda dei trasporti, nata solo 2 anni fa dalla fusione di una serie di aziende locali, quando si dice spending review e accorpamento, ebbene è andata inutile e il numero dei passeggeri sta crescendo, insomma è una buona notizia, il segno che pubblico non equivale sempre insomma ad una cattiva gestione anche nel settore dei trasporti locali. E adesso però andiamo a vedere con che cosa aprono i giornali di oggi, naturalmente insomma sempre il dibattito economico con poi la relazione del governatore della Banca d'Italia Visco, che ha fatto andare un po' in fibrillazione il governo con questi numeri sulla TASI, aumenti fino al 60%, poi Del Rio ha smentito, insomma vediamo, il Corriere scrive Fisco e casa, rebus sulla TASI, Banca Italia rischio di aumenti, Del Rio pagheremo meno del 2012, la relazione del governatore, le stime dell'Istat, economia in lieve miglioramento, l'allarme poi ridimensionato sulla TASI nella relazione generale dell'Assemblea di Banca Italia, si legge che con l'aliquota massima il prelievo potrebbe aumentare di oltre il 60%, si pagherà meno del 2012, ha detto invece il sottosegretario Del Rio, è seguita una nota della Banca d'Italia che ha detto ad aliquota base il prelievo aumenterebbe di circa il 12%, rimanendo al di sotto dei livelli registrati nel 2012. Insomma un rebus, non ci si capisce nulla, sicuramente c'è qualche aumento, forse non più del 2012, ma insomma tant'è. La vicenda della tassa sulla casa è nata così, in mezzo alla confusione, e va avanti abbastanza sulla stessa linea. Il Corriere si incarica di riportarci anche quest'altra notizia, la RAI contro Renzi, sciopero e corteo per fermare i tagli. L'11 giugno una protesta senza precedenti, perché in effetti non era mai accaduto che i dipendenti della RAI, tutti compresi i giornalisti, scioperassero contro una misura del governo. La misura è l'emendamento al decreto IRPEF che prevede un taglio di 150 milioni di euro alla TV di Stato, ridimensionamento delle sedi locali, regionali e quant'altro, insomma una protesta che diventa, scrive il Corriere, anche il primo attacco sindacale al governo Renzi, accusato di colpire non gli sprechi ma i posti di lavoro. per uscire dal dibattito politico sul, sempre sul Corriere, una notizia che interesserà più o meno tutti, almeno quelli che utilizzano la rete, cioè internet. Un modulo per scomparire dal web. Google apre agli utenti europei. Esamineremo ogni richiesta. Che succede? Che dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che riconosce il diritto all'oblio dei cittadini, arriva l'apertura di Google. Il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti europei un modulo da compilare online con il quale chiedere la cancellazione dei risultati di una ricerca non più adeguati o rilevanti. Cioè, in pratica uno fa una richiesta a Google, chiede di essere estromesso, cancellato, tolto definitivamente da ogni ricerca sul motore di ricerca più importante che c'è, cioè Google, e quindi digitando nome e cognome di questa persona non si troverebbero più i risultati se non sono più adeguati o rilevanti. Diritto all'oblio. Repubblica, prima pagina di Repubblica, riprende l'intervento di Visco che processa le banche italiane, l'austerity non basta. Che succede? Che ieri Visco ha un po' strigliato il governatore della Banca d'Italia. Le banche, che ricordiamolo sono insomma proprietarie della Banca d'Italia perché ne sono azioniste, il governatore nella giornata delle considerazioni finali torna a chiedere, come aveva fatto un anno fa, maggiori poteri per poter rimuovere gli amministratori di una banca. Insomma, di casi ce ne sono molti, da Carige ad altri, di scandali legati alle banche proprio in queste settimane, e allora Visco dice che bisogna fare come c'è una proposta di legge che è recepimento di una direttiva europea sui requisiti di capitale che giace in Parlamento. E questa è la richiesta di Visco, che ha ricordato: sono state fatte 340 ispezioni su altrettante banche, in 63 casi sono stati rilevati carenze nella governance, in 45 verifiche ispettive sono emerse irregolarità di possibile rilievo penale. Cioè, pensate, più del 10% dei controlli fatti dalla Banca d'Italia sulle banche italiane, come vengono gestite, hanno scoperto che c'erano delle cose che non andavano, anche a livello penale. Movimento 5 Stelle in fibrillazione per la decisione dell'alleanza con Farage. Grillo si schiera con Farage, scherza, non è razzista, ha detto così. Nigel non solo non è razzista, ma ha anche un gran senso dello humor e dell'ironia. Così Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, sul suo blog cerca di placare gli attivisti del movimento dopo l'annuncio dell'alleanza con l'UKIP in inglese, il partito populista di destra di Farage, che ha scatenato una rivolta interna. Ieri Casaleggio ha incontrato i 17 neo eletti al Parlamento europeo. La consegna è che sulle alleanze deciderà la rete. Qualche intervista sui giornali di oggi la sentiremo, la leggeremo più avanti. Adesso ci fermiamo, rassegna stampa europea, giornale radio, poi con tutta calma fra 20, 25, 30, 35 minuti torniamo. 800 24 00 24, apriremo anche il numero verde per i vostri interventi. A più tardi dal Festival dell'Economia di Trento. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Si può fare, oggi in diretta da Trento, da Piazzetta Pasi, dal Festival dell'Economia che si svolge in questa città. Si stanno animando la città piano piano, adesso sono le 8:20 del mattino, incontri, tavole rotonde, approfondimenti. Oggi sarà la volta del Ministro dell'Economia Padoan, domani ci sarà il Premier Matteo Renzi, che dunque ha scelto di venire anche a questa manifestazione. Lo accoglieremo naturalmente e ne faremo anche la cronaca su Radio 24. Noi invece riprendiamo la nostra mattinata insieme dando un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Oggi più avanti nel primo dei nostri approfondimenti parleremo di cultura e musei, il petrolio dell'Italia. Ieri il ministro dei beni culturali Franceschini ha detto che per la prima volta gli introiti dei musei italiani, dei siti archeologici, saranno ripartiti direttamente ai musei che li hanno prodotti senza passare dal Ministero dell'Economia, senza filtri, una buona notizia per i musei più virtuosi. E noi sentiremo tra poco i dipendenti della Fondazione Bologna Musei preoccupati per la privatizzazione annunciata dall'assessore alla cultura di Bologna, servizi esternalizzati ai privati. I dipendenti pubblici sono preoccupati non solo per il loro posto di lavoro, ma anche, dicono, per la morte della cultura pubblica. Insomma, se è vero, come dice Franceschini, che non bisogna avere paura del privato nella cultura, ci domandiamo verso quale modello di gestione dei musei stiamo andando. È giusto affidare ai privati i servizi più remunerativi? 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta su questo argomento. Adesso, come detto, riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi. Ci eravamo lasciati nella prima parte di rassegna con i commenti sull'alleanza tra Grillo e Farage, la base del Movimento 5 Stelle in agitazione, in fermento. Leggiamo una intervista ad una parlamentare del Movimento 5 Stelle, Federica Daga. La grillina ecologista, energia e solidarietà ci rendono lontani da Nigel Farage, l'intervista su Repubblica. Domanda: dicono che lei sia contrarissima all'intesa con l'UKIP, mai pronunciato una parola, neanche una, dice la Daga. E allora perché suggeriscono di ascoltare la sua opinione? Daga ride di gusto, scrive il giornalista di Repubblica, la battuta è fulminante. Forse perché io sono ambientalista mentre lui è un colonizzatore di natura? Sarà per questo, onorevole. Io però preferisco non metterci troppo il becco, risponde la Daga. Penso che debbano essere i nostri 17 eletti a discutere della vicenda e a decidere. Scusi, ma voi cosa c'entrate con l'UKIP? Gli domanda il giornalista di Repubblica. È logico che ci sono delle differenze, le vedo. Noi ad esempio teniamo molto all'energia solare, loro sono per il fossile. Il partito di Farage infatti è per il ritorno anche all'energia nucleare, o comunque per lo sfruttamento dell'energia nucleare, cosa su cui Grillo e il Movimento 5 Stelle sono fermamente contrari. Non vorrei rumeni vicini di casa, ha detto Farage, ricorda il giornalista alla parlamentare 5 Stelle. E che risponde: mamma mia, perché sono affermazioni di stampo razzista che non ritrovano diciamo coerenza all'interno del Movimento 5 Stelle. Dice: senta, noi diciamo sempre che nessuno deve rimanere indietro, c'è un mondo dietro, un contesto diversissimo, siamo diversi, poi quel tizio può dire quello che gli pare, vado in bestia se penso che l'Europa ti costringe a un'alleanza. Insomma, parlamentari del Movimento 5 Stelle che sono fortemente contrari a questa alleanza. Sempre in tema di interviste politiche, c'è Fitto che dalla pagina del Corriere della Sera manda a dire a Berlusconi: Silvio, ci stupisca, ora le primarie, basta con i pettegoli. Raffaele Fitto, forte del suo consenso elettorale, da più votato tra gli azzurri, torna a chiedere con forza le primarie a tutti i livelli per dare una scossa al partito. E se la prende con chi parla non in onda ma fuori onda. Dice: ce l'ha per caso con Giovanni Toti, considerato il suo avversario nel partito? Io non faccio polemiche con nessuno, dice Fitto. Ma avete perso le elezioni, dice, domanda il giornalista del Corriere. Usciamo da anni di guerra a Berlusconi, che ha impedito di avere un centrodestra autonomo e compatto. È inaccettabile il tentativo di liquidare la nostra esperienza politica o di dare una lettura ingiusta è falsata della nostra storia. Questo è il refrain azzurro. Cosa bisogna fare? Gli domanda il giornalista. Bisogna riorganizzare il partito, dice Fitto. Fermo restando la leadership di Berlusconi, bisogna innovare invertendo un meccanismo che non può più proseguire. Basta con le nomine dall'alto a tutti i livelli. Sì alle scelte sulla base della legittimazione popolare. Insomma, le primarie che però nel centrodestra si sono evocate milioni di volte, ma finché c'è Berlusconi di mezzo, la sensazione è che non si faranno mai, con buona pace anche di Fitto. Questo lo dico io, naturalmente non lo dice lui, ma insomma sta un po' nelle cose. E questa è l'intervista di Fitto su Corriere della Sera. La stampa intervista invece Alfano, che dice anche qua: invito a Forza Italia, rimaniamo tutti uniti, riuniamo i moderati. Alfano manda un invito a Berlusconi, ma anche alla Lega, a riunirsi di nuovo nel fronte dei moderati. Cioè, appena divisi, l'effetto un po' deludente del risultato elettorale sul nuovo centrodestra spinge Alfano a dire, beh, insomma, rimettiamoci insieme, anche se adesso Alfano sta con il centrosinistra, con Renzi. Infatti la domanda del giornalista è proprio questa: ma se vuol tornare con Berlusconi, che ci fa il governo con Renzi? Risponde Alfano: perché sono rimasto molto colpito dal discorso di Renzi alla direzione del PD. Lui ha perfettamente compreso che se vuol consolidare il 41% deve cambiare prospettiva, assorbire al proprio interno un centro, una destra, una sinistra, dai liberali di Scelta Civica ad una porzione di SEL. Non a caso ha parlato di un partito della nazione. Cosa c'è di strano? Nazione, dice Alfano, è concetto di destra, mai un leader della sinistra si era avventurato sin là. Già che ci siamo, già che siamo in quel di Trento, in diretta, trasmettiamo oggi dal Festival dell'Economia di Trento, la prima pagina dell'Adige, che scrive così: Del Rio salva l'autonomia. Ieri al Festival dell'Economia il sottosegretario ha annunciato una proposta del governo. L'autonomia deve essere protagonista con regole certe e capacità di spesa. Leggiamo l'incipit: noi pensiamo che le autonomie speciali, come quella del Trentino, possano diventare di nuovo protagoniste dello sviluppo del paese con regole certe e capacità di spesa, ha detto ieri Del Rio, braccio destro di Renzi, al Festival dell'Economia di Trento. Nella giornata inaugurale della nona edizione, tra i protagonisti anche il premio Nobel Eric Maskin, che ha bocciato la democrazia della rete. Oggi l'atteso intervento del ministro dell'Economia Padoan. Domani tocca a Renzi, dicevamo anche prima in apertura. Poi il dibattito, sempre sulla prima pagina dell'Adige, il dibattito aperto da Innocenzo Cipolletta, che tra l'altro è passato poco fa qua davanti a noi, diverse cariche, economista, presidente dell'Università di Trento, uno dei fondatori del festival. Il dibattito aperto da Cipolletta è falso che in Italia ci sono troppe tasse, e lui ha scritto un libro su questo, ne parlerà oggi alle 15.30 presso l'Aula Magna di Giurisprudenza con l'ex ministro Fabrizio Saccomanni. In Italia paghiamo troppe tasse, falso, il libro di Cipolletta. Se siete interessati, correte da Trento, dal Trentino, numerosi, al festival per questo appuntamento. 800 24 00 24, il numero verde invece per intervenire in diretta. Tra pochissimo con noi parleremo di musei. Ancora però qualcosa dalle prime pagine dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore: Visco, dice il governatore di Banca Italia, ripresa incerta, avanti con le riforme. E poi il botta risposta sulla Tasi tra lui e il governo. Sulla Tasi aumento fino al 60%, ha detto Visco. Del Rio poi ha smentito, si pagherà di meno. Il Giornale invece si incarica di raccontarci quest'altra notizia. Spaccio, arresti sospesi. Una legge del ministro Lorenzin ha ridotto a 4 anni la pena massima per chi vuole, per chi vende, scusate, qualunque tipo di stupefacenti, così mandare i pusher in carcere diventa impossibile. Solo ieri il Tribunale di Milano ne ha liberati 40 di questi spacciatori, dice il Giornale, tutti i signori che la polizia e i carabinieri avevano arrestato mentre vendevano droga nelle zone della Movida, nei giardinetti, un po' ovunque per Milano. Questo il Giornale. Libero invece scrive: casa si paga al 60% in più, Renzi all'incasso dopo le europee, e il dibattito è ancora quello a proposito della Tasi. Il Fatto Quotidiano invece titola così: Farage non lo vogliamo, Movimento 5 Stelle e le spine di Grillo. Di nuovo si parla del dibattito all'interno del partito pentastellato a proposito di questa alleanza europea. Un'interessante intervista sulla Stampa di oggi invece all'uomo che sta coordinando le inchieste a Napoli sulla Camorra e le nuove dichiarazioni del super pentito Antonio Iovine, boss di Gomorra, boss dei Casalesi, che sta facendo rivelazioni importanti. L'intervista di Ruotolo a Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto di Napoli, che a proposito di queste dichiarazioni di Iovine dice, insomma, è tutto coperto naturalmente dal segreto istruttorio. Quello che posso dire è che fin dal primo inizio del pentimento di Iovine il mio ufficio si era posto il problema di darsi una strategia per ricostruire aspetti sui quali l'emergenza delle inchieste di quando sono stati poi incarcerati tutti i boss dei Casalesi non aveva permesso di concentrarsi, dice Borrelli. Mi riferisco ai rapporti dell'organizzazione criminale con l'imprenditoria, la finanza, gli ambienti istituzionali, con i quadri amministrativi locali, cioè insomma i rapporti con il livello della politica, della camorra, rapporti sui quali Iovine sta facendo dichiarazioni importanti e facendo tremare anche qualcuno, secondo alcune indiscrezioni. In questo senso, dice Borrelli, siamo sicuri che la collaborazione di Iovine potrà aprire squarci di estremo interesse. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Guardare e non toccare, guardare ed inguiare. Sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà. Vivo morto ex, vivo morto ex, vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Fa una croce qui, firmati così. Vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. La cultura pubblica è morta, dicono preoccupati dipendenti dei musei bolognesi che protestano contro la decisione dell'assessore e della giunta di Bologna di privatizzare alcuni servizi proprio del museo, dalla gestione del patrimonio museale, la comunicazione, l'organizzazione di eventi, servizi amministrativi. Sono preoccupati questi dipendenti museali per il loro posto di lavoro, ma anche, dicono, per la cultura pubblica, perché se si dà ai privati la gestione di servizi che possono anche portare incassi ai musei, dicono, allora la cultura pubblica è morta. Ne parliamo con uno di questi dipendenti museali che hanno in programma domani un sit-in di protesta, Enrico Tabellini, che è delegato sindacale referente dei servizi museali del Museo della Musica di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Tutto questo accade mentre il ministro per i beni culturali Franceschini proprio ieri ha dato questa sì una buona notizia, credo, per tutti i musei. Ha detto gli introiti, gli incassi dei musei, con una riforma che è già praticamente operativa, andranno direttamente ai musei, non passeranno più per il Ministero dell'Economia, e quindi è una buona notizia per i musei virtuosi, quelli che producono insomma incassi utili e che potranno gestirli anche per ammodernare il patrimonio, per migliorare l'offerta e quant'altro. Tabellini, veniamo però alla vicenda bolognese. Noi abbiamo convocato anche l'assessore, che però c'ha un impegno, insomma, non è voluto intervenire. Forse, dicono alcuni, non ha, in questo momento non teme il confronto con voi. Voi per che cosa state siete sul piede di guerra? Allora, prima dicevate che la cultura è morta, allora diciamo che non è ancora morta, siamo ancora qui, non si sente tanto bene, ecco, la cultura pubblica in particolare ha passato momenti migliori. Allora, noi come lavoratori dell'istituzione Bologna Musei, che raggruppa tutti i musei comunali di Bologna, tutti i musei civici, quindi dal Museo Archeologico al Museo della Musica, al Museo del Patrimonio Industriale, al Mambo, Ustica, sì, Museo Medievale, Museo del Risorgimento, Certosa, eccetera, abbiamo visto pubblicata sul sito del Comune di Bologna lunedì 7 aprile la nuova gara triennale per l'appalto ad operatore unico dei servizi di accoglienza, biglietteria, bookshop, sorveglianza e servizi educativi. Ovviamente è il nostro lavoro, quindi siamo andati a leggerla, e andando a leggere attentamente tutto il bando sorgono, per usare un eufemismo, molti dubbi e perplessità sulla legittimità, ma soprattutto sulla trasparenza delle attività che l'amministrazione intende reperire all'esterno, sì, cioè in outsourcing. Intanto voi siete 112 dipendenti, se non sbaglio. Sì. Ecco, siamo ancora morti, siamo ancora qui. Siete ancora vivi, certo. Lottate, vivete insieme a noi. Quindi la vostra preoccupazione è prima di tutto anche per il vostro posto di lavoro, perché se viene appaltato all'esterno qualche cosa che possiamo fare noi, chiaramente la preoccupazione c'è per il posto di lavoro. L'assessore ha detto in alcune dichiarazioni che non vuole licenziare nessuno, però poi voi fate un passo in là e dite perché dare ai privati la gestione della biglietteria o del bookshop? Questo è un tema che riguarda molti musei, sappiamo per esempio anche agli Uffizi, ma anche altrove, la sovrintendenza, gli assessorati ai beni culturali, insomma affidano gli stessi musei all'esterno la gestione per esempio della biglietteria, si fanno dare una concessione e poi gli incassi vanno al privato. Voi dite che questa scelta non è lungimirante perché si cede al privato l'incasso, si cedono funzioni strategiche dei musei, è questo? No, no, a Bologna si va diciamo un passo ancora ulteriore, ancora più in là. Sì. Quello che viene fatto è un appalto all'esterno di circa 3 milioni di euro, tra l'altro con un aggravio rispetto alla situazione precedente da un punto di vista economico. Ma la cosa che secondo noi è più grave è che all'interno di questo bando ricordo per guardiania e sorveglianza, a un certo punto, a pagina 15, c'è una voce servizi ausiliari complementari appunto a guardiania didattica, e lì sono elencate tutta una serie di attività che appunto vengono completamente appaltate all'esterno. Ci sono cose del tipo lo svuotamento integrativo dei cestini, andare a prendere le raccomandate, eccetera, ma in mezzo a questa lista piuttosto lunga troviamo, compaiono anche, proprio le voglio elencare, perché questa è la cosa che ci lascia più sbigottiti, l'allestimento mostre, la movimentazione e trasporto delle opere, il controllo del patrimonio, la gestione delle attività amministrative e organizzative, la conservazione del patrimonio, sì, cioè tutte cose strategiche, insomma, grafica, la comunicazione, la valorizzazione del patrimonio, cioè tutte, c'è tutto praticamente. Ma perché secondo voi, cioè qual è la logica che ha ispirato questa decisione della giunta, dell'assessorato di Bologna, di fare questo appalto esteso a tutti questi servizi museali che voi dite sono strategici ed sono esattamente il vostro lavoro, tra l'altro con un esborso anche di quanti milioni di euro? Il valore massimo del bando è 3.300.000 euro. Immagino che il Comune pensi poi di incassare qualche cosa da questa operazione o no? Sono tutte delle ottime domande che noi stiamo cercando da più di un mese di fare, sì, a direzione, assessore, eccetera. Anche voi, mi pare di aver capito, avete avuto difficoltà perché evidentemente l'assessore non, è molto... Non siamo riusciti a coinvolgerlo, a ingaggiarlo oggi. Però senta, Tabellini, perché una domanda che molti si staranno facendo ascoltandoci è questa. Certo. Cioè, ma perché per esempio quando c'è la giornata dei musei o in alcune festività musei aperti poi si fa fatica a resistere alle richieste per esempio dei sindacati di non fare orari prolungati, i dipendenti pubblici non hanno voglia di lavorare tra virgolette, allora questa qua è la risposta dell'assessorato, cioè della giunta a queste vostre diciamo carenze, e questa è la cosa che magari qualcuno starà pensando. Allora, è una risposta a una carenza che non esiste. Tutti i lavoratori museali, dal primo all'ultimo, dal custode fino al conservatore di alto livello, lavorano i sabati, le domeniche, lavorano i festivi, lavorano i notturni. Non c'è assolutamente questo tipo di problema. Se la risposta... Adesso, per esempio, il 2 giugno c'è la giornata, anche in giornata festiva, però con musei aperti. Voi sarete aperti a Bologna? Sì, come tutte le feste. Quindi diciamo, voi dite la nostra parte la facciamo. Il problema è che la risposta a un problema che non esiste è prendo lavoratori esternalizzati a 5-8 euro all'ora in una gara per la guardianiera didattica e dentro gli faccio fare le attività core, centrali per un museo che non sono semplicemente la nostra opinione, ma anche nella carta internazionale dell'ICOM, dell'istituzione musei, la stessa legge Ronchey che tanti problemi ha creato, definisce per esempio l'attività di conservazione e l'attività educativa centrale. Ecco, se tutte queste attività vengono appaltate all'esterno in questa maniera così opaca, infilate a pagina 15 di una gara che si occupa di tutt'altro, ecco, sinceramente questo tipo di risposta non ci può lasciare per nulla soddisfatti, né noi, né i sindacati, né gli stessi cittadini che stiamo cercando di coinvolgere e di sensibilizzare. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta anche su questo argomento, avete sentito, perché poi al di là delle preoccupazioni per il loro posto di lavoro, legittimo, ma avete sentito, la preoccupazione è sulla gestione di questi servizi legati ai musei così importanti. La domanda che ci facciamo e che vi facciamo, ascoltatori, è giusto affidare ai privati servizi strategici che riguardano i musei, il nostro patrimonio culturale, i siti archeologici, sono il petrolio dell'Italia, ai privati, servizi che sono i più remunerativi. 800 24 00 24, perché naturalmente quando parliamo di bookshop e di biglietteria questo già avviene, ma anche di gestione delle banche dati, di tutto il patrimonio museale di una città come Bologna. La domanda è legittima, poi ognuno darà la sua risposta. Tabellini, intanto grazie per essere stati con noi, l'assessore ha marcato visita, peggio per lui, ha perso un'occasione per esserci. Domani avete un appuntamento in città? Sì, sì, sì, sì. Appunto perché è domenica mattina e noi non ci prendiamo mai, dopo appunto aver cercato di farci ascoltare ripetutamente dall'amministrazione senza ricevere mai risposta, dopo un sit-in che abbiamo fatto martedì abbiamo deciso di invitare la cittadinanza a questa iniziativa tragicomica, molto seria, perché poi noi in museale siamo anche molto pignoli da questo punto di vista, perché celebreremo i funerali della cultura con pubblica cerimonia, dove ovviamente speriamo che sia solo metaforica questa cosa, Tabellini, naturalmente. Grazie, appuntamento domani a che ora a Bologna per chi volesse partecipare? 10.30 all'ingresso principale in via della Certosa, un omaggio a tutti i cittadini che hanno messo assieme nel corso dei secoli le nostre collezioni che noi stiamo cercando di difendere. Ai benefattori della cultura. Vivi si rivolterebbero anche loro con noi e non nella tomba, perché l'iniziativa si chiama Mi rivolto nella tomba. Grazie Enrico Tabellini, insomma un nome un po' macabro, però che volete farci? Questo è il senso dell'iniziativa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci di nuovo in diretta da Trento ed è il momento di Carlo Gabardini. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti. Anche tu da queste parti. Sì, sono contentissimo. Siamo a Trento al Festival dell'Economia, immagino che tu l'abbia già detto 8 volte. Perfetto. Siamo contentissimi, c'è il sole, è tutto bellissimo. Poi siamo in gita, quindi è la nostra prima gita e ne siamo molto contenti. L'unica altra ipotesi è stata a Perugia, diciamo. C'eri tu, ma non c'eravamo noi. Esatto. Qua con l'unità esterna di Radio 24 che si sta comportando egregiamente. Hai visto le gigantografie degli economisti di Krugman, Soros, di Latouche? Cosa ci facciamo io e te qua? Non è chiaro. Noi facciamo la radio, anche la gigantografia di Radio 24. Prima ho incontrato un signore che mi ha detto: sono proprio contento, siete molto bravi voi di F24. E mi è sembrato stupendo, perché evidentemente stava andando a pagare un F24. È una sintesi fra l'economia, direi, e Radio 24. Esatto. Quindi è perfetto. Era proprio in tema. E tra l'altro. Sentiremo signore, anche gli ascoltatori, lo dico, 800 24 00 24 sul tema dei musei, perché vedo che già sta scaldando il centralino, privati sì, privati no. A Bologna domani fanno i funerali della cultura pubblica, perché c'è questo bando di privatizzazione dei musei. I bolognesi sono un po' preoccupati. Ma che bello, un bel funerale così sabato mattina alle 8:30, annunciare è sempre una bella notizia. Un signore invece ha detto: sono contentissimo che voi siate qui, perché io amo moltissimo la trasmissione Si può fare, siete bravissimi, ma come mai non parlate mai degli alpini? Effettivamente io non sapevo che cosa rispondergli, quindi diciamo mi incarico io di questa cosa. Intanto dico viva gli alpini. Io tra l'altro mio nonno era alpino, quindi della Iulia, e ne sono contentissimo. E salutiamo l'alpino Paolo Dal Lago, che è colui che ha detto: siete bravi ma non parlate però mai non è degli vero, alpini. Perché c'è una rubrica su Radio 24 che parla proprio degli alpini tutte le mattine, non tutte le mattine, 24 mattine. Alessandro Milan e Peter Bescapè fanno sempre il teatrino dell'alpino. Ma lui parlava di noi, diceva: come mai voi di Si può fare, che parlate sempre di buone notizie, di cose buone, cose così, non parlate mai degli alpini. Questo è. Tu hai qualche notizia io per noi? Io certamente ho qualche notizia. Allora, arriva il titcoin, ovvero quando il seno diventa moneta. allora, è un'idea di Marco. Perché ti ho chiesto se avevi le notizie? Ma perché, ho pensato, siamo in piazza a Trento, sono le 8:30 del mattino di sabato, è perfetto, visto che abbiamo anche gli altoparlanti verso fuori e stiamo disturbando tutta la piazza, ho detto, di che cosa si può parlare? Di tette, pensavo, e mi sembra una buona idea. Comunque è una notizia vera, anche se per il momento è solamente sulla carta, ovvero è un'idea di marketing del sito Hard Porn Hub. È inutile che fai quella faccia, Alessio, perché lo conosci benissimo, tutti e lo conoscono tutti, infatti annuiscono anche tutti in piazza, tutti sanno che cos'è. C'è Porn Hub, innovazione quasi, esattamente, sì. E si basa, diciamo, sulla possibilità di pagare in un negozio tramite una foto del proprio seno. Come funziona questa cosa? Molto semplice, i commercianti che accettano questo tipo di moneta dovranno apporre un logo, non so cosa ci sarà sul logo, ma diciamo lo sospetto. Dopodiché entra una persona che vuole fare gli acquisti, compra tutto quello che vuole, va alla cassa e invece di pagare si alza la maglietta, mostra il seno, il cassiere fa la foto delle tette di questa signora e la signora può uscire con la sua merce, il cassiere manda la foto a Pornhub, il quale paga il conto. Ora, non si sa bene come sia il cambio, nel senso che non credo che tu vada in un negozio di Ferrari e, anzi, diciamo così, dipende dalle tette, dipende giustamente. Poi, siccome io, diciamo, il mio core business lo conoscete, direi che è una cosa che è un po' troppo femminile come questione. Quindi andrebbe fatta anche per gli uomini, assolutamente. Vabbè, e consiglierei che gli uomini possano farlo abbassandosi le mutande e direi che invece che Titcoin si chiama Penny. Magari con una N sola, ma va bene. L'altra notizia invece viene... Non so se fartelo dire dopo questa notizia, ma parliamo di calcio adesso, parliamo di calcio visto che stanno arrivando i mondiali. Visto che la tattica non basta, ci si prova con la matematica. Sto parlando dell'Inghilterra, perché l'ultima speranza di trionfo dell'Inghilterra al mondiale di calcio in Brasile gliel'ha regalata Stephen Hawking, scusate la pronuncia, in questo momento è che è mattina, abbiamo dormito pochissimo perché ieri sera è stato molto divertente qua a Trento. Io ho dormito pochissimo, tutti molto regolari. Comunque Hawking, che è il celebre scienziato britannico, però questa volta non si è concentrato su buchi neri e origine dell'universo, ma sul football. Visto che l'Inghilterra non si laurea campione del mondo dal 1966, Hawking, su commissione dell'agenzia di scommesse Paddy Power, che se non ricordo male sono gli stessi che avevano fatto quella campagna sulle stringhe arcobaleno contro l'omofobia, per cui tutti gli sportivi scendevano in campo con queste stringhe, ha provato comunque Hawking a scrivere la formula vincente. Ora adesso non ve la posso descrivere perché è ovviamente una formula matematica molto complessa, però l'Italia non è che non ce la faccio, guarda, se vuoi te la faccio vedere, però se vuoi raccontare una formula e ti sembra una cosa radiofonica, no, io se vuoi te la consegno molto invece volentieri. Mi interessa l'Italia. L'Italia, che è nello stesso girone dell'Inghilterra, ricordiamo che è il girone D, quindi ha un po' di che preoccuparsi. L'equazione è sicuramente molto complicata, le variabili sono la temperatura, l'altitudine, addirittura il colore delle maglie, la lunghezza dei viaggi. Dobbiamo chiudere, va benissimo. E allora a questo punto niente, dico semplicemente che in questo tipo di formula c'è anche una teoria per i rigori che vi dirò dopo. Benissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Si può fare in diretta da Trento al Festival dell'Economia. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno, chiedo scusa che prima urlavo, mi hanno detto che urlavo anche dalla regia di Milano, hanno chiamato mia mamma, pare. Ci sono abituati gli ascoltatori, perché adesso lo sanno. Parlo a bassa voce. Chi era Mario Pasi, lo sai tu? Certo, è quello che ha dato il nome a questa piazza, e quindi perché tu è un martire sbagliata della resistenza. Esatto, noi vediamo il cartello piazzetta Mario Pasi, veniteci a trovare qua a Trento. Assolutamente, ci vengono a trovare. Tra l'altro ho anche parlato con dei carabinieri che mi hanno detto, molto bello che hai parlato degli alpini, ma bisogna parlare anche dei carabinieri che fra poco festeggiano i 200 anni, quindi rubrica, un saluto all'arma. Forze armate, sempre comunque. Non abbiamo ancora detto una cosa importante, che anche oggi si chiama l'800240024, che cosa succede? E si bisogna fare il prefisso di Trento prima davanti? No mai serve, dare un numero sbagliato in radio, sono uno stagista, qualcosina l'ho imparata. Che cosa ha reso bella la vostra settimana? Aspettiamo le vostre chiamate anche su questo. La nostra settimana sicuramente è resa bella da questa trasferta a Trento. Carlo, si vincono oggi biglietti per la mostra dei Pre-Raffaeliti a Torino oppure Andy Warhol a Roma, ma anche il prestigioso catalogo. Dunque chiamateci come sempre, raccontateci cosa ha reso bella la vostra settimana. Abbiamo un po' di chiamate già in linea, tra poco entreremo nel vivo del Festival dell'Economia con un ospite, un caro gradito ritorno, Giorgio Boatti, giornalista e scrittore. Ci parlerà un po', così ci farà un po' da cicerone. Intanto, ascoltatori, Rinaldo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tocca a lei. Sì. Rinaldo? Sì, volevo... È il suo momento. Ah, ecco. No, prego. Volevo dire che intanto quello che accade ai lavoratori di Bologna molto probabilmente si sta pensando su vasta scala nel settore dei beni culturali statali. Ma l'altro elemento che è importante che l'opinione pubblica comprenda è che non si tratta di battaglie corporative delle singole categorie, ma si tratta del futuro dei beni culturali nel nostro paese. Sì, cioè... Rinaldo, mi faccia giusto riepilogare la notizia per chi non l'avesse sentita circa 20 minuti fa, un quarto d'ora fa. Il Comune di Bologna ha deciso di esternalizzare, di cedere in gestione a privati una serie di servizi nei musei, comunicazione, gestione del patrimonio, banche dati, ma anche biglietteria, bookshop. Questa è la notizia da cui siamo partiti. Quindi lei cosa... Io dico che questo modello abbiamo già ampie esperienze. Ma lei lavora in un museo per caso? Io sono il segretario nazionale della Federazione Lavoratori Pubblici del settore beni culturali. Niente, poco di meno. Per capirci, il nome del ruolo è lunghissimo. Quello per capirci che ha chiuso il Colosseo, non certo per chiudere il Colosseo, ma per sensibilizzare l'opinione pubblica sui gravissimi problemi del nostro settore, che sono di due tipi essenzialmente, risorse e organico. Perché c'è questa compressione di risorse e di organico? Perché si va verso il privato? L'opinione pubblica deve sapere che questa compressione dei diritti dei lavoratori è una compressione dei diritti dei cittadini del paese. Cioè, questo modello che va verso il privato non dà alcuna garanzia. Poi, intraprendere nel settore culturale, cioè al di fuori dei contratti collettivi nazionali di lavoro, significa fare impresa facile, diciamo, no? Perché se io pago una persona 4 euro l'ora, è chiaro che poi posso, ovviamente, ho dei margini importanti. Questi sono gli stipendi, lei dice. Qualche altro ascoltatore ci aveva scritto al 349-238-6666 che in effetti sono questi gli stipendi, pochi euro l'ora che vengono ventilati a questi futuri dipendenti privati nella gestione dei musei bolognesi. Non ne sappiamo molto di più perché volevamo intervistare l'assessore non è stato dei nostri, insomma, aveva altri impegni evidentemente. Non era a Trento, ma non era neanche al telefono raggiungibile. Giorgio dalla provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno, senta, la mia opinione sulla questione dei musei, dei dipendenti dei musei diametralmente opposta. È la solita difesa corporativa di posizione da parte dei sindacati che difendono delle posizioni di privilegio e di ormai di rendita di posizione dei loro associati, senza nessun interesse reale per i cittadini. Quello che gli frega è il posto fisso, stabile, legato alla mammella dello Stato. Punto. Non ci sono altre discussioni. Il sistema privato funziona bene. Non mi sembra che negli Stati Uniti, dove hanno molto meno pubblico rispetto a noi, abbiano problemi di diffusione della cultura. Però mi scusi, Giorgio... Però di sanità qualche problemino ce l'hanno, diciamo, così per dire. Sì, per carità. Giorgio, però l'obiezione, scusi, che le faccio è questa... Al di là del discorso che difendono il loro posto di lavoro più legittimo, ma naturalmente non potrebbe essere solo quello l'orizzonte di un discorso sulla cultura d'Italia, ma non dovrebbe essere proprio l'Italia a creare modelli di gestione dei musei anziché andare a guardare quello che fanno in America, visto che insomma di patrimonio artistico ne abbiamo più noi se vogliamo fare una classifica. Se vogliamo fare una classifica, esatto. Scusate, bravo Gabardini. Quello pubblico funziona bene? Allora, quello pubblico non funziona bene, c'è bisogno di cambiare il sistema di gestione dei musei e della cultura in Italia. Non è che niente di quello pubblico funzioni bene, però. Niente, non sto parlando di assoluti, perdoni, ovviamente in due minuti bisogna sintetizzare il pensiero. Prego. Non sto parlando di assoluti, però è evidente che quello pubblico non funziona bene. L'esempio del Colosseo nella notte dei beni pubblici aperti a tutti è un esempio clamoroso. È stato molto faticoso tenerlo aperto. Sì, un altro esempio potrebbe essere Pompei, dove da anni si parla di manutenzione ma non si fa. Grazie Giorgio, non per togliere la parola, ma per sentirne un altro di ascoltatori, un'altra voce. Federico da Treviso, buongiorno. Buongiorno, in verità mi trovo in questo momento a Venezia, quindi parliamo di beni culturali. Ma va bene anche Venezia per noi. Sì, anzi meglio. Com'è il tempo? C'è il sole anche lì? Sì. la lancetta rispetto all'ascoltatore di prima. Se guardiamo la gestione, per esempio, delle fondazioni liriche, che sono sostanzialmente pubbliche, vediamo il disastro che abbiamo in Italia, e quindi il modello italiano, pur essendo la culla della musica, l'Italia non è esattamente un modello di efficienza. Tanto per dirne una, Maggio Fiorentino, ecco. Vogliamo dire questa? Ma il mio intervento era su un'altra questione. Mi rifaccio a una lettera contenuta nel libro del vostro direttore, di una ragazza che si è laureata nei beni culturali e che ha cercato lavoro. Non ci faccia domande troppo difficili, che facciamo brutta figura col direttore, perché diciamo, io non ho il corso monografico sul libro del direttore. Per dire che in Italia abbiamo alta specializzazione nel mondo dei beni culturali, ci siamo sempre dimenticati della formazione dei bambini nelle scuole, fin dalle materne, in tutti gli aspetti culturali e nelle arti performative. Se la cultura è il pane quotidiano, dobbiamo imparare a insegnare ai nostri bambini a non mangiare solo il ruolo della scuola, del resto sì, non solo hamburger e patatine, certo, no, del resto la scuola viene tirata in ballo sempre, quando c'è il bullismo la scuola, figuriamoci per la cultura, certo, la scuola certo giusto. Ci deve stare, insomma. Va bene, che facciamo? Ci fermiamo? Facciamo una pausa? Torniamo? A me chiedi? Ma io sono lo stagista, ma ho questo potere. I tempi della allora racconto questa cosa, visto che siamo in questa baita nel centro della piazza di Mario Pasi, addirittura qui si sta saldando una cuffia, in diretta. Mi piacerebbe che poteste sentire l'odore del saldatore, ed è bellissimo dentro questa baita dove uno si aspetta dell'odore, non so, di polenta e speck, e invece noi sentiamo l'odore del saldatore. Davide Cioce in diretta ha aggiustato una cuffia, così, giusto per darci una dimostrazione delle sue capacità. Si può fare cronache da un paese migliore. Così ho capito, nella vita il significato, c'è il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto fidanzata. Di nuovo in diretta qua dal Festival dell'Economia di Trento, Piazzetta Pasi. Venite a trovare lo stand di Radio 24, da dove trasmettiamo in diretta. E a proposito di economia, parliamo di agricoltura e ne parliamo con Giorgio Boatti, giornalista e scrittore, autore del libro Viaggio nell'Italia che torna alla terra e forse a se stessa. È un gradito ritorno quello di Giorgio. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che è qua perché tra l'altro oggi sarà impegnato in una di queste tavole rotonde che sono il core business, tanto per tornare a quello che dicevi prima, Gabardini, del Festival dell'Economia di Trento. Ne abbiamo approfittato, diciamo, perché il viaggio lo paga il Festival dell'Economia e noi abbiamo approfittato di avere qua con noi Giorgio Boatti, giusto? Si può dire? Sì, ma Giorgio era qua comunque. Cioè per era questo qua, dico, è perfetto. Un incontro oggi sulle classi dirigenti. Lo storico pisano Banti parla su come l'Unità d'Italia è stato un unire o un far confliggere ideali o interessi. Alla Filarmonica alle 11 se ne parla oggi. Alle 11 di mattina? Alle 11 di mattina, perché è un problema importante, bisogna affrontarlo abbastanza. Avere tutta la giornata davanti. Lo precisavo perché io quando sento 11 la prima cosa che mi viene in mente non è le 23, che ora finirà, ovviamente. Sarà una cosa lunga. Ah, pure? Giorgio. Beh, io sono sempre contento quando c'è Giorgio Boatti, perché come ho detto l'altra volta l'ho letto tantissimo, il suo libro su Piazza Fontana l'ho proprio letto e studiato consumato un sacco, e quindi ogni volta che lo incontro ne sono molto contento e vorrei anche fargli delle domande, perché sa tutto. Quello di Piazza gli, Fontana. Gli aspetti, le ombre sulla storia italiana, gli altri libri, gli ultimi soprattutto, è un paese ben coltivato, che è l'ultimo, diciamo che è uno sguardo un po' più luminoso. Ma stando qui ad esempio e vedendo da questo stand della radio la cura con cui un giardiniere sta innaffiando le viole del pensiero che circondano lo stand, io mi rendo conto che è ancora qua il giardiniere, è appena andato via ad accudire altre pianticelle. Mi rendo conto che un paese ben coltivato si fa proprio con queste microazioni e far bene il proprio lavoro, insomma. Poco per volta. Sì, con pazienza. Però è quello il trucco, insomma, il segreto. Perché tu hai scritto questo libro, hai viaggiato per l'Italia. Io prima avevo letto solo il sottotitolo, ma il titolo giustamente l'hai ricordato tu. Un paese ben coltivato, hai fatto proprio un viaggio consumandoti, come si dice, le suole delle scarpe, alla ricerca di cose, storie di agricoltura. Sì, di sfide di persone, che giovani, donne, cooperative, piccola imprenditoria che torna alla terra ma con un'idea che è di innovazione, di cooperazione, di affrontare le sfide della globalizzazione, e saltano fuori dal nord, dal sud, al centro delle vicende e delle persone bellissime. Un po' lo hai già detto, adesso magari ci racconterai di nuovo qualche particolare, qualche aneddoto, qualche storia, un po' l'hai già detto, ma il filo conduttore di queste storie è una curiosità che mi viene di chiederti, perché insomma quando si parla di ritorno alla terra sembra sempre una cosa un po' nostalgica, sì, un bucolica, po' mi piace, cioè, ma come Venezia non ci vivrei mai, cioè non lo farei mai, sempre che lo fa qualcun altro, perché poi la terra è comunque un lavoro, la terra è bassa, faticoso. E tu cosa? No, io ho voluto raccontare appunto questo senza tonalità bucoliche. Non ci credo proprio alla poesia agreste, ecco, mi dà proprio l'allergia. Io ho visto delle storie di estrema concretezza, ma dove c'è il pragmatismo, c'è la capacità italiana di, davanti alle difficoltà, di inventare soluzioni, di non... Ecco, scopri un paese che ha uno zoccolo duro, caparbio, durevole, che non accetta l'autodenigrazione né il fallimento, e che ha voglia invece di competere. E mi sembra che appunto l'idea che mi aveva mosso in questo viaggio un anno fa, quando ho cominciato a scriverlo, a me sembra confermata non solo nel lavoro dei campi. Io ho l'impressione che l'Italia stia respirando da qualche tempo un'aria un po' più speranzosa, ecco, un po' più grintosa. Ho l'impressione che, spero di aver afferrato, che fosse un auspicio che però si realizza, quello che stava contenuto in quel viaggio, in quel titolo. Ma più dal punto di vista dell'agricoltura, però stai dicendo. Non solo, io ho l'impressione che è lo spirito complessivo, cioè il paese ben coltivato non è solo coltivare i campi, era una metafora di un paese che ha un po' più cura di sé. Cioè, ecco, quindi anche dare l'acqua non solo alle viole, ma insomma nutrire i nostri, abbiamo parlato prima dei musei per esempio, la nostra cultura, volergli bene e preoccuparsi a livello legislativo, a livello economico, insomma di una maggior cura della cosa pubblica, degli affari che ci riguardano tutto, della comunità. Adesso abbiamo avuto le amministrative, metà dei sindaci italiani sono stati rieletti, oppure sì. È un paese che si, ad esempio, che si regge su questi primi cittadini che sono poi il fronte più importante con cui la realtà si infrange, i problemi pratici hanno a che fare, quindi è un paese che ha ancora una grande capacità di aderire e di rappresentare la realtà. Ma quindi dici che c'è speranza, insomma? Ma io sono pensavo parlassi solo dal punto di vista, diciamo, solo delle piante, degli alberi e della verdura. No, è un messaggio molto positivo. Il messaggio questo che stai è dando. Tutto sboccia. Intanto due notizie, perché è stato firmato ieri, credo, proprio l'accordo. Parliamo di agricoltura, tra il governo e le regioni sulla politica agricola comune, la gestione in Italia di 52 miliardi di euro nei prossimi 6 anni. Soddisfatte le associazioni di categoria, ha detto il presidente della Coldiretti, sono state tolte le rendite di posizione allo 0,2% di beneficiari di questi fondi, che avevano il 15% delle risorse. Sulla gestione dei finanziamenti all'agricoltura è una vicenda storica, forse più che Piazza Fontana. Sì, sì, è un dibattito complessissimo, sì. Ma obiettivamente la questione è complicata davvero. Però se fosse così sarebbe una buona notizia. Sì, ho visto a grandi linee, non sono un tecnico, però ci sono stati c'è molta attenzione per la giovane imprenditoria, l'imprenditoria, esatto, agricola, per la cooperazione, per quindi nuove formule di affrontare l'azienda agricola, e mi sembra, speriamo, molto positivo. Speriamo. Un'altra cosa che ti voglio sollecitare è questa: Carlin Petrini di Slow Food ha fatto l'incontro con Sala, il capo dell'Expo. Petrini e Slow Food che saranno coinvolti dentro, insomma, il Nutrire il Pianeta, il grande evento del 2015 di Milano, però alla fine non ce l'ha fatta, gli ha detto è un Expo senza anima, abbiamo occupato i terreni agricoli con gli spazi della fiera, c'è la corruzione, la gente non ha capito soprattutto un tubo di questo Expo di cosa si tratta, e quindi un po' sconsolatamente Petrini ha ammesso che l'evento rischia di sfumare. Giorgio, tu come la vedi? Ma mi sembra che quello che dice Petrini abbia delle basi reali. reali, molto concrete. Ho l'impressione che l'approccio all'Expo, solo come si è fatto fino adesso, come strutture, come il sito dell'Expo, quindi tutta la parte, i progetti che incidono sul territorio, senza capirne le valenze culturali e comunicazionali. Cioè, qui si tratta... Ma è colpa di... cioè, siamo noi italiani che l'abbiamo interpretata male, oppure è una logica superata quella dell'evento? Come al solito, noi abbiamo proprio un'idea delle cose che da realizzare in cui la brutalità della materialità, il costruire, ignora come invece tutto questo debba essere accompagnato da una riflessione, da comunicazione, da condivisione. Già l'Expo, che si inaugura il 1° maggio, ma lì si inaugura i padiglioni, dovrebbe essere un'operazione culturale che inizia ora e che ha al centro proprio l'originalità del nostro coltivare. Anche perché si parla quasi sempre, come stai dicendo tu, si parla quasi sempre dei capannoni da costruire, delle infrastrutture da affiancare all'Expo. Va benissimo, servono anche questo, ma noi abbiamo un'eccellenza produttiva che non è poi tra l'altro solo il gustare, il gourmet, che il buon vino, è tutto il sapere che sta dietro a questo. Accanto all'Expo abbiamo le grandi aziende agricole, che abbiamo ad esempio un edificio come la Sforzesca vicino a Vigevano, che è la prima fattoria moderna inventata dagli Sforza nel 400, sta andando alla malora, è un edificio meraviglioso, dovrebbe essere salvato e portato proprio come esempio di come questa tradizione è radicata nei secoli, la cultura moderna dei campi. È che bisogna recuperare e parlare di questo, perché di Expo va a finire che si parla quasi sempre di soldi, esatto. Cioè del fatto che è una macchina, addirittura appalti, soldi, anche quando si parla di cose positive, di solito viene sempre detto però questa cosa a Milano porterà tanti soldi, ma il problema è che cos'è l'Expo? Certo. Cioè che si parlerà di cibo, di cultura del cibo, di come viene prodotto, di cambiamenti, cioè in teoria dovrebbe portare un sacco di altre cose dal punto di vista, diciamo, culturale, legate al cibo, non alle strutture che rimarranno o non rimarranno, i soldi e i finanziamenti. Rendiamo evidente la complessità del coltivare e del nutrire in tutte le sue concrete diramazioni. Speriamo che in questi mesi che ci separano da Expo si colmi questa lacuna, perché è stato detto, ormai è acclarato, che insomma qualcosa bisogna fare quantomeno a livello di comunicazione per quanto riguarda Expo. Noi ringraziamo Giorgio Boatti, lo trovate oggi alle 11 alla Sala Filarmonica Ideali o Interessi, come si fece l'Unità d'Italia, se vi interessa potete trovarlo là, Festival dell'Economia di Trento, l'appuntamento l'abbiamo dato. Perfetto, ci saremo anche noi molto probabilmente, perché alle 11 cos'è che hai da fare? Auditori. Esatto. Niente, cosa ho da fare? Adesso ho da lanciare invece un'altra iniziativa, ed è questa, riguarda la creatività ai giovani, alla Fiera dell'Invenzione e della Creatività, il prossimo 6 giugno al Chilometro Rosso, il Parco Scientifico Tecnologico alle porte di Bergamo, si svolgerà la 6ª edizione di Che Idea? Dario Ceccarelli ha intervistato Mirano Sancin, ideatore e direttore del Chilometro. Allora, dottor Sancin, siamo, se non sbaglio, alla 6ª edizione di Che Idea, no? Sì. Perché tanto successo? Cos'è una fiera delle idee, delle invenzioni, dell'intuito? Si caratterizza per una originalità di base. Noi abbiamo pensato che le idee e le invenzioni partono sempre da, anche quando hanno una base scientifica, partono da una scintilla, che quando questa scocca, diciamo così, in ambienti non convenzionali, non istituzionalmente rivolti alla ricerca, stentano ad affermarsi, perché questi ambienti sono conservativi, qualche volta anche autoreferenziali, ma anche giustamente, perché no? Ma quando persone creative presentano di proposte, invenzioni, trovano porte chiuse. Ecco, noi vogliamo aprire queste porte. Chi sono queste persone che presentano questi progetti? Noi ci rivolgiamo soprattutto a persone che non operano stabilmente in questi ambienti, cioè università, centri di ricerca industriali, eccetera, ma persone normalmente così libere, eccolo, che sviluppano proposte in modo autonomo, giovani ma non soltanto, una buona parte laureati, ma anche persone, diciamo, autodidatti, persone molto curiose, persone creative che fine hanno presentato una serie di proposte che noi abbiamo valorizzato. Posso anche citarne alcune? Certo, anzi, qualche cosa che è curiosa, che le ha lasciato impressa qualche particolarità. Ma per esempio un velocipede inerziale ad alte prestazioni è stato presentato alla fiera, all'Expo di Shanghai nel 2010, che è stato selezionato da noi. Un altro dispositivo per lo stoccaggio dei caschi per motociclisti è stato presentato nel 2011 nella giornata dell'innovazione al Presidente della Repubblica. Poi altre sono sviluppate autonomamente, per esempio tecnologie robotiche per la visione in chirurgia mini invasiva transluminale, un letto culla per le degenze ospedaliere che evita il decubito, non so, altre soluzioni che riguardano il mondo della moda, le calzature, sviluppo di molecole per la cura della dipendenza da droghe d'abuso, cioè vede di tutto, no? Invenzioni che riguardano ambiti tecnologici molto molto diversi. Degli italiani spesso si dice sono geniali ma poco disciplinati, ecco, lei cosa ne pensa? Beh, penso che sia abbastanza vero, le dico, poco disciplinati, però guardi, la creatività non nasce in un ambiente organizzato, rigido, anzi proprio ha bisogno di questa, diciamo, indisciplina, no? Poi va in qualche maniera incanalata verso le opportunità di valorizzazione ed è quello che noi facciamo. Si può fare cronache da un paese migliore. Mentre tu eri lì ad intrattenere il pubblico di Radio, sì, 24, io mi sono informato su cose serie, su però, cose serissime. Però posso dire è venuto il signor Sandro Schmidt dell'AMPI di Trento. Certo. E ci ha spiegato per bene chi è Mario Pasi, Piazzetta Pasi. Che se non sbaglio è morto, è nato partigiano. Nel 1913 ed è morto nel 1945, perché io sono preparatissimo. La lista su... non ti manca. Esatto. Siamo davanti alla targa del resto. E non solo, posso dire un'altra cosa, sì, dove siamo davanti? Perché l'altra cosa bellissima, essendo la festa dell'economia, è che siamo davanti a un bancomat, che mi sembra molto bello, perché io ho raccolto almeno 4 pin già, quindi penso che stasera ci divertiremo moltissimo. Questo era meglio se non lo dicevi. Allora, Mario Pasi, ci ricorda il signor Sandro Schmidt dell'AMPI di Trento, nasce a Ravenna da una famiglia romagnola, era un medico, è stato insomma un martire della resistenza al fascismo. Ma era giusto ricordare, ma anche certo, questo. Anche perché è nato nel 1913, quindi l'anno scorso si è festeggiato il centenario della sua nascita. Però adesso è il momento, inviati cercasi, è l'ultima inviata che chiamiamo a raccolta oggi a raccontarci buone notizie da lei segnalateci. In questo caso parliamo di vacanze, era giusto salutarci con questa iniziativa che termina tra l'altro proprio oggi. Con una cosa di vacanze, e abbiamo Valeria Cocco, blogger, autrice di un blog particolare, si chiama romabilityblogspot.com. Buongiorno Valeria. Buongiorno. Buongiorno. Valeria è autrice di questo blog che è rivolto in lingua inglese a turisti stranieri, in particolare parlanti inglese, insomma, quindi tutti, la maggior parte, ma soprattutto turisti disabili, quindi aprire Roma anche a chi ha qualche disabilità con un blog in inglese. Valeria, intanto complimenti. Grazie. Perché allora, tu sei allo stesso tempo l'inviata che ci racconta la notizia e la notizia. E la notizia. Certo. Allora, diciamo che Romability è nata dalla mia passione per il turismo e per il volontariato. E questa idea parte circa 2 anni fa con un progetto che ho avviato quasi per gioco, e da allora però è un progetto che ha molto cresciuto, e durante questa esperienza ho riscontrato proprio che il punto debole del turismo accessibile a Roma era la mancanza di adeguate informazioni, e quindi proprio informazioni, per questo, sì. Sì, proprio per questo ho deciso di creare un blog. Il blog infatti raccoglie delle informazioni rivolte a turisti con disabilità motoria, ma anche ad anziani, mamme con i passeggini, quindi in realtà non è un turismo solo per disabili, è un turismo alla portata di tutti, è un turismo per tutti. Valeria, l'idea è bellissima, naturalmente, complimenti. E poi è giusto che sia per tutti, perché mi sembra, sì, che la carenza di informazioni è un po' in generale che esiste questa carenza di informazioni, quindi giustamente non è solo per disabili. Però a proposito di informazioni, come hai fatto a reperire le informazioni utili proprio per questo tipo di turisti? Cioè dove si può andare, dove ci sono gli ingressi facilitati, dove ci sono le postazioni per le mamme con bambini, per esempio? È stato allora, difficile raccogliere tutto questo? Beh sì, è stato abbastanza lungo, in quanto i contenuti del blog e tutte le informazioni sono state raccolte da me personalmente, con l'aiuto anche l'approvazione di chi ha proprio queste necessità di superare questi tipi di barriere architettoniche. Infatti un grande ringraziamento lo devo anche alla mia amica Mira, che è una giornalista ungherese disabile, che mi ha accompagnato da 2 anni a questa parte in questo percorso, in questa appunto scoperta, in questa avventura relativa proprio a quello che è il turismo accessibile a Roma. Anche perché giustamente i disabili si accorgono di barriere che noi non ci rendiamo minimamente conto, certo. Perché ci sembra tutto facile, ma a volte basta un gradino di 4 centimetri che se uno è in carrozzella diventa un problema insormontabile. Ecco Valeria, ma il tuo blog poi diventa un modo anche per conoscere alcuni di questi turisti oppure rimane tutto a livello diciamo virtuale, ecco? Ecco, diciamo che per il momento le informazioni e i contenuti sono dei racconti, delle foto che posto io in prima persona su quelle che sono le esperienze, gli eventi culturali a Roma, le serate romane, le attrazioni turistiche, i mercatini rionali e quant'altro. Ma ci sono Ma sai perché te lo chiedevo, Valeria? Perché sì. Te lo chiedevo per questo, per sapere se diciamo c'è un ritorno, un riscontro su quelli che sono, i luoghi comuni del fatto dell'Italia o del fatto che Roma sia difficilmente accessibile per un disabile. La polemica adesso. Esatto, volevo un po' di polemica, Valeria. In realtà ci sono stati sul mio blog un paio di post di persone disabili che raccontavano la loro esperienza come il com'era? Cimitero italico era bella. meno male. Sì. Senti, ci sono anche tu ti diverti anche a giocare col dialetto, no? E a tradurre in inglese delle espressioni. È un gioco, insomma, che si fa spesso. Sì. Ce ne vuoi raccontare qualcuna di queste traduzioni? Beh, in realtà ho messo più che altro le classiche espressioni come daglie che daje. Ma devi dircela in inglese, che la parte com'è bella daje? È come daje in inglese? I don't know, it's an emphatic expression. Empathic expression, fantastico, che vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma non c'è una traduzione, perché io per esempio leggo, Sì, la traduzione l'ho scritta sul blog. Sì. Go for it, giusto? Sì, go for it sarebbe appunto dall'inglese, però ecco. Dai, proprio... questa era più difficile, invece una cosa tipo namo, let's go, questa è già più lineare. Certo, cioè... una piotta che diventa 100, o possiamo dire suona meglio il dialetto comunque. Famo che diventa we do, che famo we do, eccetera. Insomma, bene, Valeria, complimenti, il blog, ricordiamo il nome... Sì, io direi che FAMO è quasi più Yes We Can, direi così, per citare Obama, direi. FAMO, bello. Valeria, vuoi accogliere il suggerimento di Gabardini, cioè cambiare la traduzione di FAMO con Yes We Can? Sicuramente. Si può fare. Poi può fare. Anche mettere citazioni, cheat Gabardini. No, dicevo, ricordiamo il nome del blog, per chi si fosse incuriosito. Sì, il blog è Romability e lo trovate su www.romability.blogspot.com oppure sulle pagine Facebook, Twitter o Google+. Magnifico. Invito tutti quelli che possano essere interessati. Benissimo. A commentare post, a dare suggerimenti, segnalare luoghi accessibili, raccontare esperienze, ecco. Curiosità. Questo è importante per allargare insomma la rete delle informazioni sull'accesso per i turisti disabili a Roma. Grazie mille Valeria Cocco, blogger, autrice del blog, avete appena sentito, l'ultima concorrente del nostro gioco Inviati Cercasi. La settimana prossima vi comunicheremo chi è l'inviato prescelto, la notizia più bella, il giudizio vincitore fra tutti gli inviati che abbiamo avuto, che abbiamo trovato, mesi, una decina di inviati, uno lo premieremo e vince un soggiorno sostenibile offerto da EcoTube. Abbiamo una lunghissima riunione che faremo qua a Trento, immagino, per decidere una riunione il vincitore. Fiume per decidere il vincitore. Adesso un ascoltatore, anzi ascoltatrice, Anna da Roma, buongiorno. Buongiorno, allora sono buongiorno. Un po' fuori tempo rispetto a quello che dite adesso, ma mi riallaccio al discorso del segretario che ha parlato prima per la chiusura, l'apertura dei luoghi pubblici. Sulla privatizzazione dei musei, esatto, siamo partiti dalla notizia di Bologna. Allora io lavoro in una struttura pubblica dove c'è grande privatizzazione, ma né una né l'altra soluzione sono sempre corrette. La cosa ci può dire qual è la struttura pubblica? Scusi, io lavoro curiosità. In un ospedale pubblico. Quindi sono molto a favore del pubblico, perché certe cose il privato non le può assolutamente sostenere economicamente. E spesso quello che viene però esternalizzato è, diciamo, sortisce in un lavoro di bassa qualità e anche mal pagato. Allora forse la soluzione migliore sarebbe quella di rivedere modernamente anche quelli che sono i contratti dei lavoratori pubblici, quelli proprio a contratto, perché sono troppo ricchi di protezioni veramente obsolete, attempate. Cioè, la terza soluzione è quella del rimodernizzare i contratti pubblici del personale, non viene mai contemplata da nessuno, ma anche questo sarebbe molto importante. Va bene, invece è un'ipotesi, è una, come dire, una possibilità che lei ci invita, che non andrebbe mai lasciata persa, insomma, andrebbe a non escludere. Bene, grazie, grazie Anna da Roma. 800 24 00 24, vediamo se nell'ultimo spicchio di trasmissione riusciamo a sentire ancora qualcuno. Invece abbiamo qua con noi il sindaco di Rovereto, Andrea Miorandi. Buongiorno. Che ci parlerà tra pochissimo, dopo la pausa, di un grande evento che c'è proprio oggi, cominciato stamattina e andrà avanti tutta la notte, perché si chiama Notte Verde a Rovereto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Le risorse in modo intelligente che non sfrutti, come sciacalli questa nostra terra per consumi, che non son bisogni, no, ma veri e propri abusi. Voglio un mondo ad energia alternativa, perché il petrolio ci sta portando alla deriva. Voglio un mondo senza corruzione e di conflitti di interesse, dove un politico si occupa di appalti e imprese. Voglio un mondo che non spreca, che ricicla, stop all'immondizia, all'ingordigia. Salviamo le foreste, fonti di ossigeno e vita, di biodiversità e linfa. Verde ciò che sono, verde ciò che provo, verde ciò che voglio diventare come uomo, verde il passato. E allora, come annunciato, siamo qua con il sindaco di Rovereto, Andrea Miorandi, qua in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, per parlare di questo bel evento che è iniziato stamattina ma andrà avanti tutta la notte. Si chiama per l'appunto Notte Verde, dalla terra alla tavola. Insomma, ci sono tantissimi eventi molto molto gustosi. E infatti ce l'hai in mano questa bellissima brochure, e sembra che tu abbia in mano la Divina Commedia, un menù. Sì. Direi che stiamo decidendo dove andremo a pranzo oggi pomeriggio. Abbiamo Food Lab, stuzzicamente laboratori per bambini e adulti in giro per la città. Abbiamo Happy Food Center, il cortile urbano in via Roma dedicato ai giovani. Tasting Tours in piazza Erbe, ma insomma c'è tutto. Sindaco, allora, una bella iniziativa. Voi di sostenibilità qua da queste parti siete in prima linea. Ci parli intanto però di come avete pensato di organizzare questa Notte Verde. La Notte Verde quest'anno parla di una tematica, come dire, importante, che poi è il tema dell'Expo 2015. È la quarta edizione per noi della Notte Verde. Ci è venuta in mente questa idea di prendere l'idea della Notte Bianca e trasformarla con un bel colore, ma al di là del colore, una mano di verde, ma dietro questo colore c'è tutta una programmazione che fa sì che si possa parlare di ambiente come opportunità di sviluppo, ambiente per volersi bene, perché poi la salute è al centro delle nostre iniziative. Insomma, è un modo diverso per parlare di ambiente, in diverso modo, dallo sport alla cultura, con i musei si sono fatti dei progetti diversi. Si è partiti questa mattina abbiamo inaugurato la Notte Verde, che poi è un lungo fine settimana, con il mercato contadino, quindi i cittadini sono andati a fare la spesa con prodotti, acquistando prodotti locali, filiera corta, e si va avanti tutto il giorno, poi fino a domani mattina, perché domani mattina ci si risveglia con la ginnastica nei parchi e poi si fa colazione con i prodotti biologici e poi via una biciclettata per scoprire i luoghi belli della città. Ma l'ha detto biciclettata, non scooterata. No, infatti, posso iscrivermi solo alla colazione e saltare la biciclettata o il pacchetto è obbligatorio? Vabbè, è giusto. Sicuramente sì, ha chiamato mia mamma per dire che devo dimagrire. Va bene. Quando parliamo di green economy, di sostenibilità, di valorizzare il cibo, la nostra agricoltura, dico in Italia, sottolineo questa espressione, parliamo di una cosa come di un'opportunità, cioè di una cosa che deve ancora venire. Mi sembra che parlandone da questa prospettiva si parli di una realtà, cioè voi ci siete già dentro. Ne facciamo sì, non è solo una questione di bandiera, qui veramente ci crediamo nel rispetto dell'ambiente. E guardate, do qualche numero per capire dove siamo arrivati. Come città di Rovereto abbiamo avviato una raccolta differenziata molto spinta, che ci ha portato a toccare l'80% di raccolta differenziata. Abbiamo quadruplicato la rete ciclabile in città, abbiamo trasformato la nostra zona industriale in un grande parco solare per produrre energia rinnovabile, stiamo certificando tutti gli edifici pubblici per abbassare i consumi, insomma, veramente tanti obiettivi che vedo con pochissima fatica da parte dell'amministrazione si possono proporre ai cittadini, perché è un progetto intelligente, i cittadini rispondono. Facciamo una bella affermazione, eh? Sì, cioè un progetto intelligente, i cittadini rispondono, perché così molte volte le amministrazioni si chiedono come mai i cittadini non rispondono, forse perché non sono progetti intelligenti, quindi no, nel senso che è molto giusto, nel senso che spesso diciamo il popolo è più avanti dei nostri politici, invece è molto buono dire se il progetto è buono, in realtà i cittadini rispondono. Prima di entrare magari anche più in argomento nel vivo, ci dà qualche appuntamento in particolare di questa notte verde il sindaco di Rovereto, voglio sentire un ascoltatore, perché vediamo se riusciamo a dare anche oggi qualche biglietto di qualche mostra per il racconto di cosa ha reso bella la vostra settimana. Davide dalla provincia di Torino. Buongiorno. No, stavo sentendo questa iniziativa di Rovereto, è molto carina come idea, la notte verde. Venga a trovarci. E a trovarli. Verrò. Noi siamo già qui, quindi. Non è che Torino sia dietro l'angolo, però insomma. Vabbè, mi faccio un viaggio, ne approfitto. Giusto, in bici. Venga in bici, parta adesso, che arriva per l'anno prossimo. Se devo farla già lì, tenetemi pronta la colazione almeno, che così almeno. Giusto. Sarà fatto, Davide. Sarà fatto. No, io volevo farmi un po' di pubblicità, posso? Beh, mi ha reso felice siamo la qua settimana per il fatto che è uscito fuori il mio disco. Il mio nuovo disco, io faccio il DJ di musica elettronica, sì? E è uscito il mio primo singolo in vendita. DJ di musica elettronica, adesso è l'epoca dei DJ, cioè non esistono più i dischi. Beh, adesso è l'epoca del DJ, adesso no, sei arrivato un po' tardi. Ho detto male, sono arrivato un po' tardi sicuramente in generale proprio nella storia, però è l'epoca, si va anche ai concerti dei DJ per esempio. Sì. Ecco, da quanto? Da un po', io ormai saranno 15 anni. Beh, il primo disco dopo 15 anni, diciamo con calma, no, ma va bene, noi te lo pubblicizziamo volentieri. E come si chiama il disco a questo punto? Allora, K attivo sono io, K trattino attivo, e il disco è Frequency Response. Va bene, è un'eccezione, non è che facciamo sempre queste pubblicità, però siccome chiediamo di raccontarci che cosa ha reso bella, bravo. Continua a seguirci. Che cosa ha reso bella la vostra settimana? Davide ha reso bello questo avvenimento, che è comunque un avvenimento, cultura, musica. Vabbè, e poi dopo 15 anni un avvenimento, è un avvenimento anche in famiglia, direi. Sindaco, ci tiri fuori lei qui dalla situazione. No, ci vuol dare qualche appuntamento in particolare di questa notte verde? Ma allora, oggi pomeriggio al MART, al nostro Museo di Arte Moderna e Contemporanea, i bambini esploreranno il cibo giocando con l'arte, quindi la pop art sarà applicata per ricreare i propri piatti. E poi nel pomeriggio con Slow Food, nel piazza del Centro Storico, parleremo di rispetto della terra, appunto passando attraverso le produzioni agroalimentari. Ci inventeremo un laboratorio di panificazione, quindi le famiglie impareranno a fare il pane fatto in casa con la pasta madre. Ci sta venendo un sacco fame, posso dire. E poi ora vado avanti ancora, vi facciamo venire ancora più fame, perché poi il pane ci va anche l'olio. E quindi parleremo dell'olio del Lago di Garda, perché dobbiamo sapere che un buon olio si fa anche nell'arco alpino. Al Lago di Garda ci sono. È vero, ce lo si dimentica molto spesso. Stiamo chiudendo proprio con lo spazio inserzioni pubblicitarie. Stiamo chiudendo con lo spazio pinzimonio. Soprattutto stiamo chiudendo, infatti siamo in chiusura, mancano pochi secondi. Allora cominciamo con il lungo elenco anche di doverosi ringraziamenti. L'unità esterna di Radio 24 in Nazione Atleta, espressione inaugurata da te quando eravamo a Perugia. E quindi grazie a Elena Ligios che coordina tutta la truppa, Davide Ciocia, Gianmarco Ferronato per quanto riguarda la parte tecnica, Giorgio De Luca naturalmente che è sempre, sempre con noi, ce lo portiamo redazione. Nel trolley. Vabbè, poi abbiamo a Milano Guido Scotti, Carmelo La Rucella, basta, se no diventiamo. Vabbè, non tutti fino al direttore, fino all'amministratore delegato. Io devo anche ricordare Andrea Piana che ha scritto con noi il programma. Tu cos'è che devi io ricordare? Devo ricordare Trento Doc al Castello del Buon Consiglio, ed è una manifestazione che c'è sia oggi sia domani domenica dalle 18 alle 24. Perfetto, grazie ancora al sindaco. Grazie a voi, grazie Andrea Miorandi. Grazie, bella sindaco. La notte verde, verremo sicuramente. Noi siamo in chiusura, ci ritroviamo domani mattina sempre in orario quando non c'è nessuno in giro alle 8:30, forse domani andrà un po' meglio di oggi. Ma certo, anche perché stasera sarà bellissima, quindi direi che arriviamo lunghi direttamente dalla serata. Bene, a domani, un saluto da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, ciao. Ciao. Sì!